Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo alla scuola Sant'Anna di Pisa, stasera più precisamente all'Istituto di Biorobotica per parlare di soft robotics, robotica soffice letteralmente. È un settore della robotica che in pratica è stato letteralmente inventato dai ricercatori di Pisa e in particolare da Cecilia Laschi, inserita da RoboHub, la principale comunità internazionale di esperti di robotica, tra le 25 donne più geniali del pianeta in questo campo. Ho incontrato Cecilia Laschi a Roma qualche settimana fa in occasione della consegna di un altro premio, Ingegno al Femminile, organizzato dall'Ordine Nazionale degli Ingegneri, e naturalmente le ho chiesto di raccontarci del suo lavoro. Sentiamo com'è andata. Allora, intanto, che cosa si intende per soft robotic? Beh, la definizione è molto banale, se si vuole, cioè l'utilizzo di materiali soft, quindi morbidi, per costruire robot. Proprio il materiale è morbido, ad esempio immaginatevi il silicone si usa molto in soft robotics. Al posto di quei bei pezzi d'acciaio che siamo abituati a vedere. Ecco, c'è un progetto che è un po' emblematico, è diventato il progetto simbolo dell'attività di ricerca che voi state facendo a Sant'Anna di Pisa, anche se certo non è l'unica cosa che avete fatto, che è questo Octopus, un polpo addirittura robot. Certo, il polpo è stato il modello ideale per iniziare, per fare i pionieri in questo mondo sconosciuto della soft robotics, e quindi quel progetto rimane ancora oggi proprio l'emblema della ricerca in soft robotics ed è quello che ci ha permesso poi di risolvere tutti i problemi fondamentali, i primi problemi, cioè capire quali sono i materiali che vanno usati, capire come fare a farli muovere, perché la robotica è far muovere le cose. Interazione con l'ambiente. Certo, perché questo poi è anche la base del fatto di fare il corpo soft, quindi quello che fanno i muscoli, no? Un tessuto morbido lo fanno contrarre, lo fanno muovere, quindi abbiamo dovuto inventarci delle tecnologie per fare questo. E poi anche molti studi su proprio tutta la struttura meccanica, tutti gli studi sull'interazione di queste strutture soft con l'ambiente e, cosa per i robotici difficilissima, andare a controllare una cosa che si deforma in maniera strana e che non è fatta di parti rigide. Io ho visto anche le immagini di questo polpo robot bianco e gelatinoso che si muove nell'acqua, che può sembrare un po' una curiosità vista così, un esercizio così, quasi un divertismo. Invece stanno già arrivando delle ricadute, perché poi è così che funziona la tecnologia. Certo, il divertismo in realtà è stato fondamentale per studiare problemi fondamentali senza avere l'ansia di un'applicazione, perché l'applicazione poi ti distoglie dai problemi fondamentali perché cerchi solo di farlo funzionare per quella cosa. Adesso arrivano le applicazioni, quindi abbiamo già fatto un endoscopio che sfrutta alcune delle conoscenze che abbiamo ricavato in Octopus per renderlo a rigidezza variabile. Ricordiamolo, quindi, che cos'è un endoscopio, magari non lo sanno tutti. È una cosina piccola che entra all'interno del corpo umano e quindi, muovendosi all'interno del corpo umano, se è morbido è meglio per non danneggiare gli organi, però poi deve irrigidirsi a un certo punto per fare le operazioni che deve fare. Parliamo per esempio di uno di quegli strumenti con cui si fanno le micro operazioni chirurgiche, no? Per cui si entra attraverso un buchino e dentro bisogna manipolare cose, cucire, tagliare. Sì, esattamente questo, per chirurgia mini invasiva, quello che è stato fatto dal nostro istituto in collaborazione anche con dei partner stranieri. E così come ora stiamo realizzando un braccio per assistere gli anziani nell'igiene personale, proprio sotto la doccia, quindi un braccio che li aiuta a lavarsi, che quindi li tocca anche, li strofina e li insapona e li risciacqua. Questo in realtà per i robotici forse è ancora più difficile che controllare una roba molle, nel senso che se per esempio uno va in una fabbrica vede che i robot sono rigidamente, fisicamente separati dagli esseri umani, e forse qui stiamo arrivando anche al motivo di fondo dello sviluppo di questa soft robotics. Sì, infatti poi la motivazione alla base di tutto è il fatto che vogliamo provare a portare i robot nella vita quotidiana. Si sta già facendo, soprattutto nella ricerca, con l'approccio tradizionale, quindi insomma avrete visto che gli umanoidi che vengono realizzati in varie parti del mondo, che hanno fatto la DARPA Challenge, si prova a fargli fare dei compiti utili fuori dalle fabbriche, e per carità la tecnologia è molto avanzata, tante cose si riescono a fare, però si intuisce anche che c'è un limite, a questo tipo di approccio, che molto più avanti non so se potrà andare, per poter davvero permettere l'utilizzo dei robot nella vita una quotidiana. Convivenza normale tra robot ed esseri umani, al punto che lei dice che questo termine un giorno sarebbe meglio che scomparisse, soft robotics. Sì, infatti a me non piace già quasi più soft robotics, perché devo evidenziare che è soft, cioè i robot devono necessariamente avere delle parti soft. È come dire che una palla deve essere sferica, lei dice. Esatto. A un certo punto deve diventare normale. A un certo punto si è capito che doveva essere sferica, non si dice più una palla sferica. Era Cecilia Laschi dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Noi ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Vi lascio alla voce di Roberta Giordano. Buona serata.